Sì, sì, oh! Fuori frequenza! Un pensiero va a voi! TML! Ya tu sabes! Un pensiero va a ognuno di voi! Parlo anche di te, quindi cazzo vuoi? Qualche rima per spiegare ciò che dentro nascondi? Caro figlio di papà, vengo dai bassi fondi. Se parlo di te, tu sì ti nascondi. Ti chiudo la bocca nella tua merda, si affondi. Critichi ogni persona con totale disprezzo. Ma cos'hai nel cervello? Minchia sei connesso. E ti vanti tanto degli amici che hai su Facebook. E guarda un po' che bello il mio ultimo netbook. Agli occhi Carrera, indossi Giacca Armani. Giri con i tuoi lecchini che applaudono le mani. E la tipa, la festa è sempre la più bella. Piena di gioielli, si sente una stella. Tutta truccata, il vestito è una figata. Ma il giorno dopo guai a chi l'ha guardato il fondo tinta sul cuscino, il trucco sbavato, ma è questa la stessa che avevo scopato. Stufo di queste persone finte, nascoste dietro a maschere a nuove tinte. Un pensiero va a voi, stolti figli di papà. Un pensiero va a voi, brutte troie di merda. Un pensiero a tutti voi, con una puzza sotto il naso. Se la canzone per voi, non l'ho scritta per caso. Un pensiero va a voi, stolti figli di papà. Un pensiero va a voi, brutte troie di merda. Un pensiero a tutti voi, con una puzza sotto il naso. Se la canzone per voi, non l'ho scritta per caso. Un pensiero a queste vittime della società. Un minuto di silenzio, un po' di solidarietà. Tutti belli e pettinati nella loro vita spensierata. Tanto hanno il papi che gliel'ha organizzata. Ma basta un po' la testa, raccomandato del cazzo. Tu non sai vivere senza l'aiuto dell'altro. Io per un lavoro devo farmi in quattro. Con la gente come te non ho stretto il compatto. Dal tuo piedistallo dici che so coatto. È vero, lo sono e ne prendo atto. Ma almeno so vero, trasparente e sincero. Chi alza il terzo dito ai tuoi parti non c'ero. Il mio pensiero va a te, perfettino del cazzo. Come non ci parli perché sono troppo pazzo. Un altro pensiero va a te, troia di merda, tutto ciò che ti meriti è una bella sberla. Un pensiero va a voi, stolti figli di papà. Un pensiero va a voi, brutte troie di merda. Un pensiero a tutti voi, con una puzza sotto il naso. Se la canzone per voi, non l'ho scritta per caso. Un pensiero va a voi, stolti figli di papà. Un pensiero va a voi, brutte troie di merda. Un pensiero a tutti voi, con una puzza sotto il naso. Se la canzone per voi, non l'ho scritta per caso. Hai capito, frate? De che sto a parlare? Metto a nudo in rima tutta sta falsità. Giorno dopo giorno ne vedo troppa. E più passa il tempo, non passa, raddoppia. La testa me scoppia, sta vita da una botta. Altri sentimenti persi per una mignotta. Minigone attacca a spillo solo per provocà. E poi te lamenti si te vanno a toccà. A bella rilassate, fate un altro giro. Quante ore ci hai perso per sta così in tiro? Movenze rigide, manco fossi una mummia. Te sbavi un po' di trucco, urli come una scimmia. Cerchi l'avvocato, bello incravattato. Il principe carino, perfetto e realizzato. A me invece mi gridi di per qualche reato. È vero, non c'ho nessun dottorato. Mi rompi i coglioni perché ho fumato. Tu madre te l'ha detto, è disadattato. Ma io sono soddisfatto, è così che so fatto. Non cambio per nessuno, bella vattene a fanculo. Un pensiero va a voi, sono i figli di papà. Un pensiero va a voi, brutte troie di merda. Un pensiero a tutti voi, con la puzza sotto il naso. Se la canzone per voi, non l'ho scritta per caso. Un pensiero va a voi, sono i figli di papà. Un pensiero va a voi, brutte troie di merda. Un pensiero a tutti voi, con la puzza sotto il naso. Se la canzone per voi, non l'ho scritta per caso. Un pensiero va a voi, stolti figli di papà. Un pensiero a voi, brutte troie di merda. Un pensiero a tutti voi, con una puzza sotto il naso. Se la canzone per voi, non l'ho scritta per caso. Un pensiero a voi, stolti figli di papà. Un pensiero a voi, brutte troie di merda. Un pensiero a tutti voi, con una puzza sotto il naso. Se la canzone per voi, non l'ho scritta per caso. E questa va a delle persone che ho conosciuto, che se credono migliori di altre solo perché sono più fortunate. Andatevene a fanculo. Questa è Street Life Productions. Fuori frequenza. Trieste 2011.